L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, torniamo a parlare di un tema che ci è molto caro questa settimana. Parliamo di rifiuti, infatti, perché non c'è e non ci sarà mai un altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente, se non riusciremo a produrre meno rifiuti, a differenziarli di più e a riciclarli al meglio. E ritroviamo in questa puntata, gradita ospite, il gruppo ERA, Multiutility di Servizi Ambientali, Idrici ed Energetici, attiva in Emilia-Romagna. E parliamo con il gruppo ERA, in particolare con Filippo Bocchi, che è il direttore del Corporate Social Responsibility per ERA, di un premio e di una iniziativa. Innanzitutto, benvenuto all'Altro Pianeta. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie per essere con noi. Dicevamo, parleremo in questa puntata di un'iniziativa particolarmente bella e interessante che avevo visto tempo fa e che ho tenuto da parte perché ho detto questa sicuramente sarà argomento, oggetto di una puntata, e di un premio che è invece stato attribuito in tempi molto recenti al gruppo. Ci racconti un po', Bocchi, di questa iniziativa che avete lanciato voi qualche tempo fa, che è un'iniziativa per la riduzione dell'uso della carta attraverso la diffusione a tutti i vostri clienti della bolletta elettronica, che quindi consentirà di risparmiare carta e di piantare alberi. Sì, dunque abbiamo lanciato proprio il 6 novembre questa iniziativa e l'abbiamo anche introdotta nelle nostre iniziative per nella settimana di prevenzione dei rifiuti. La nostra iniziativa Elimina la bolletta e regala un albero alla tua città. È sostanzialmente una campagna di promozione della bolletta elettronica, che è una possibilità che tutti i clienti nostri hanno già di poter ricevere, appunto, di sostituire la bolletta cartacea con quella elettronica, ma che abbiamo ravvivato con questa campagna che lanciamo in questo mese, associata alla piantumazione di alberi. Allora, bisogna premettere che soltanto il 3% dei nostri clienti, nonostante abbiamo già fatto delle campagne in passato, ha deciso di ricevere una bolletta per la posta elettronica invece di una bolletta cartacea. Allora, nonostante la regione sia una regione che invece da un punto di vista, diciamo, elettronico è avanzata, ecco, quindi molti non hanno deciso di passare alla bolletta elettronica. Assolutamente, infatti secondo noi questo è un dato molto in contrasto con, diciamo, la diffusione della posta elettronica, di internet. Dunque, cosa vogliamo fare? Volevamo incentivare ulteriormente, agendo anche sulla sensibilità ambientale dei nostri clienti, perché è vero che è importante ridurre la carta, ma è anche vero che la bolletta elettronica è anche più sicura, perché non si perde mai, arriva sempre puntuale, dunque è anche un tema di comodità. La riduzione della carta è un fattore però molto importante, che a questo punto bisogna assolutamente raggiungere, secondo noi. Si può pensare che il gruppo ERA ogni anno spedisce 16 milioni di bollette. Ecco, gliel'avrei chiesto, 16 milioni. Esatto, sono circa 55 milioni di foglie di carta e soltanto, diciamo, il 3% di questi 16 milioni di bollette è elettronico. Dunque quello che vogliamo fare è ridurre questa carta e anche ridurre le emissioni di CO2, ma di inquinanti associate alla produzione e al trasporto, perché poi queste bollette fisiche vanno trasportate nel territorio con costi per tutti, insomma, alla fine. Bisogna dire che questo vantaggio ambientale è associato anche a un vantaggio economico, sicuramente per l'azienda che ha deciso di investire, che poi si tradurrà anche sulle tariffe, però nel primo anno di risparmio è stato deciso di investirlo in alberi da piantare nel territorio. Dunque la nostra iniziativa ha un obiettivo di ridurre la carta, ma anche di piantare alberi, e abbiamo deciso di piantare alberi nelle città. Non abbiamo deciso di creare, questi siamo anche molto interrogati, osi, avremmo anche piantato più alberi, probabilmente nel territorio di riferimento, ma abbiamo deciso di destinarle nelle città perché volevamo anche una valenza sociale di questa iniziativa, nel senso creare, migliorare il contesto urbano e creare parchi per le scuole, giardini, viali, alberati, nuovi parchi gioco, eccetera, in modo che potesse essere anche sia un intervento visibile, ma che potesse anche concorrere a migliorare l'ambiente delle città, dove tra l'altro, insomma, vuoi che l'impatto ambientale, l'impatto del cambiamento climatico si fa sentire sempre di più, dunque c'è necessità di aree verdi nei contesti urbani. E poi c'è questa straordinaria capacità degli alberi anche di assorbire non solo la CO2 ovviamente, ma anche di assorbire degli inquinanti, dunque per me le polveri sottili. Certo, senta, quindi abbiamo detto il primo anno mettiamo alberi sul territorio, dall'anno prossimo magari pensiamo anche a qualcosa di più economico per i clienti, ma le città per avere questi alberi diciamo devono raggiungere degli obiettivi cittadini o stiamo parlando di un obiettivo globale per tutto il gruppo, quindi aumentare fino a 100.000 le adesioni come leggo nel comunicato? Intanto rispondo alla sua domanda, ma prima ci tengo a precisare meglio quello che ho detto sul risparmio economico per i cittadini. Allora, il primo anno il risparmio è destinato in alberi, ma poi evidentemente nel meccanismo tariffario viene, diciamo, questo risparmio viene incluso, essendo le tariffe di servizi regolati a copertura dei costi di servizio, dunque poi negli anni successivi viene sicuramente ribaltato come risparmio economico per la collettività, per i cittadini dunque. Per quanto riguarda gli obiettivi, ecco, ci siamo dati degli obiettivi molto concreti, nel senso che vogliamo incrementare di 100.000 adesioni. Allora, cosa vuol dire? Che attualmente siamo a 80.000 clienti che hanno scelto la modalità online, il 3%, dicevo, e vogliamo incrementarli di 100.000, che vuol dire passare al 7%, non degli obiettivi di folle, insomma ci sembra abbastanza raggiungibile, ciò, però c'è bisogno dell'impegno di tutti, dunque abbiamo deciso di coinvolgere i comuni. I comuni sono tenuti a fare, diciamo, promozione insieme a ERA. In questo straordinario bellissimo sito www.alberi.gruppoera.it si possono trovare tutte le informazioni relative agli obiettivi, ma anche tutte le aree verdi, le nuove aree verdi che i comuni hanno selezionato, hanno scelto, prevedendo anche dei criteri sociali, come dicevo prima, perché è importante anche i parchi gioco, i parchi per dei centri sociali, dei centri anziani, le piste ciclabili, dunque anche una valenza appunto di sociale era importante, e si possono trovare in questo sito, dicevo, anche tutte le mappe di dove sono dislocate questi, saranno dislocati questi 2.000 alberi, perché a fronte di 100.000 nuove adesioni vorremmo piantare 2.000 alberi nelle città. Per adesso sono 23 le città che hanno aderito, ma stiamo allargando anche le piccole città, i piccoli paesi sotto i 20.000 abitanti, e dove appunto saranno destinati questi alberi, con un risparmio di carta associato a queste 100.000 nuove adesioni di oltre 2 milioni, di circa 2 milioni e 400 mila fogli ogni anno, e emissioni di CO2 evitate di 44 tonnellate, e se, questo va bene. I numeri sono senz'altro consistenti, quindi insomma l'obiettivo è globale, ecco, non è, globale, no, allora, non cittadino, diciamo che, non è che sia Bologna tutti al 50% improvvisamente vogliono una bolletta elettronica, Bologna guadagna più alberi di, non lo so, Rimini. No, per adesso no. L'obiettivo è globale. Poi cosa succederà? Che Bologna avrà per prima gli alberi se avrà un incremento più elevato rispetto alle altre città. Ah, ok. Cioè, si premia la rapidità. Si premia la rapidità dell'azione anche del comune, e dunque in un certo senso le città più virtuose sono premiate, ecco, di queste 23 che abbiamo finora aderenti. Poi un discorso diverso, quelle più piccole, dove effettivamente sui 161 comuni più piccoli, sotto i 20.000 abitanti che stanno aderendo, ne vinceranno i primi 20, in termini di maggiore incremento percentuale di adesione alla bolletta elettronica. Cioè chi passa a una città più digitalizzata, adesso si parla molto di smart city e di cose di questo tipo, l'agenda digitale è un tema molto all'avanguardia, si spera appunto che si riesca a raggiungere gli obiettivi, gli importanti obiettivi che anche la comunità europea ha fisso su questo, e dunque questo è un piccolo contributo, vuole essere, cioè anche l'utility digitalizza le bollette, dematerializza le bollette, e qui in più dà alberi che contribuisce a creare aree verdi. E quindi un bel risparmio sotto tutti i punti di vista. Ora, restando sempre in tema di rifiuti, andiamo all'altro argomento, ovvero il premio che vi è stato attribuito. Sembra che vogliamo incensarvi a tutti i costi in questa puntata, però diamo a Cesare quel che è di Cesare, insomma. Il premio di cui parliamo è Premio Arete 2012 per il report sulla raccolta differenziata, che ogni anno riporta in dettaglio le percentuali di quanto della raccolta differenziata viene effettivamente recuperato e in quali impianti vengono trattati i rifiuti. Voi date in questo modo, e quindi a me interessa far passare questo messaggio, cioè che è possibile dare al cittadino indicazioni su che fine fanno i rifiuti, cittadini che spesso sono sfiduciati perché negli anni hanno visto cattivi comportamenti, ecco, invece possono pretendere e ottenere di sapere che fine fanno i loro rifiuti. Sì, infatti l'obiettivo di questo report è proprio quello che dice lei. L'abbiamo tra l'altro fatto perché ce lo chiedevano i cittadini. Ce l'aveva anche detto in un nostro convegno di presentazione del bilancio di sostenibilità Lega Ambiente, mi ricordo, che aveva dichiarato durante appunto quel convegno, ma era secondo noi dovrebbe dare l'informazione non soltanto della percentuale di raccolta differenziata raggiunta come proprio obiettivo. Che ormai danno un po' tutti, insomma. Ecco, non tutti, ma non ci si può fermare solo lì, ma bisogna anche dire quanto effettivamente della raccolta differenziata viene recuperato. Allora, siccome la direttiva europea del 2008 fissa degli obiettivi in termini di recupero, non tanto di raccolta differenziata, poi bisogna vedere quanto effettivamente della raccolta differenziata viene recuperato, abbiamo deciso di tracciare i rifiuti, il percorso dei rifiuti della raccolta differenziata fino ad arrivare, questo era l'obiettivo che abbiamo faticosamente raggiunto, ma è da 3 anni che lo raggiungiamo perché diamo questa disponibilità di questo report, arrivare fino alla cartiera, alle vetrerie che recuperano poi effettivamente il materiale. E questo appunto è un report che ha vinto il premio Rete, siamo molto contenti perché è stato uno sforzo significativo e siamo l'unica utility che fa un report di questo tipo e lo fa tra l'altro anche verificare a un ente terzo, dunque i dati sono certificati. E incrociati in tutto e per tutto. Esatto, insomma, è una cosa non banale perché ovviamente siamo andati, il nostro ente terzo che verifica il report va anche a fare gli audit, le verifiche presso gli impianti di recupero per effettivamente riscontrare se ci sono quelle percentuali di recupero che vengono dichiarate. Il report si chiama Sulle tracce dei rifiuti, scopri dove va a finire la tua raccolta differenziata proprio perché dà l'informazione di quanto per le principali filiere, non le abbiamo analizzate tutte, ma abbiamo una copertura del 75% della raccolta differenziata attraverso la mappatura, la tracciabilità dei principali materiali che vengono poi raccolti nelle case normalmente, cioè la carta, il vetro, la plastica, l'alluminio, i barattoli sostanzialmente, ma è anche però il verde, l'organico, cioè il verde, le sfalce, potature e l'organico. Di questa, abbiamo mappato di questa quantità, abbiamo riscontrato che il 93,4% nel 2011 è stato effettivamente recuperato. Prosegue l'altro pianeta dopo la viabilità e prosegue, come promesso la scorsa settimana, con un secondo e ultimo estratto della presentazione dell'ultimo libro di Lester Brown pubblicato in Italia da Edizioni Ambiente. Il titolo è 9 miliardi di posti a tavola, la nuova geopolitica della scarsità di cibo. È un volume che è stato presentato dall'autore nel corso del 4° forum del Barilla Center for Food and Nutrition. Chi è Lester Brown? È uno scrittore, appunto, ambientalista, economista statunitense, fondatore anche e presidente dell'Earth Policy Institute, che è un'organizzazione no profit di ricerca sull'ambiente che ha base a Washington. Il moderatore di questo incontro di presentazione del libro è stato Enzo Argante, conduttore di Ferry Boat qui su Radio 24, che quindi ringraziamo ancora una volta per averci fornito la registrazione dell'evento. Io ho sentito Lester Brown. L'indicatore economico del futuro è il prezzo del cereale. Il 50% dei cereali nel mondo sono prodotti dalla Cina, dagli Stati Uniti e dall'India. Questo vuol dire che loro sono e saranno i padroni del mondo? Questa è la domanda. China, India and the United States are the big three grain producers. Sì, effettivamente questi tre che lei ha nominato, Cina, Stati Uniti e India, sono i tre grandi produttori di cereali al mondo. E ciò nonostante la Cina ha ancora un deficit nella produzione cerealicola e di soia, per cui sostanzialmente è il più grande importatore di soia al mondo. L'India è importatore ed esportatore allo stesso tempo. Gli Stati Uniti sono in realtà una categoria a sé stante perché sono gli unici che sono veramente esportatori netti di cereali al mondo. Per cui effettivamente sono loro che detengono il potere maggiore, se vogliamo. Fortunately, the US has never. Anche se va detto, gli Stati Uniti non hanno mai utilizzato questo loro potere nella produzione cerealicola a livello politico. Si innesta il tema del land grab, cioè dell'accaparramento delle terre anche, della riduzione degli spazi vitali di sopravvivenza di alcuni paesi. Well, one of the consequences of the land grabs, which are concentrated in Africa. Ma sì, una delle più gravi conseguenze del land grabbing, che tra l'altro si concentra sostanzialmente nel continente africano, è che proprio milioni, letteralmente milioni di abitanti delle zone rurali vengono letteralmente sfollati, vengono costretti ad abbandonare la loro terra, che è anche la loro fonte primaria di sostentamento. E chi acquisisce questa terra? Sono sostanzialmente grandi investitori, non sono i paesi che hanno deficit alimentare che si possono permettere di acquistare questi terreni, sono i grandi investitori che poi rappresentano l'1% in realtà, mentre il restante 99%, che è quello che vive su queste terre, si vede, e che ovviamente rappresenta la fascia più povera della popolazione mondiale, si vede costretto ad abbandonare la propria terra, mentre tutti i vantaggi, tutti i benefici ovviamente vanno ancora una volta nelle mani dei più ricchi, per cui i più poveri perdono la terra e di conseguenza perdono la capacità di sostentarsi. Ed è questo che porta a una distorsione ulteriore della distribuzione della ricchezza a livello mondiale. Il cibo è la questione centrale che intercetta anche le questioni climatiche, della crescita, dell'acqua, dell'energia. Ridurre le emissioni entro il 2050, lei ha detto, è troppo tardi. Bisogna farlo entro i prossimi 7 anni, entro i prossimi anni. Il rischio, se no, è l'autodistruzione. Allora la domanda è, anzi la sua affermazione è, bisogna ridefinire il concetto della sicurezza, intesa come sicurezza economica per la sopravvivenza del pianeta. Come si fa a ridefinire questo concetto? A quale livello? Let me do the last question first. We have inherited... Ma sì, magari rispondo prima alla domanda che era contenuta in questo suo commento. Noi intanto abbiamo il concetto di sicurezza che abbiamo oggi, ancora è un retaggio del XX secolo. Quando si parla di sicurezza, un XX secolo tra l'altro caratterizzato da due guerre mondiali, da una guerra fredda, per cui a Washington, per esempio, dove io vivo, quando si parla di sicurezza immediatamente la gente pensa a sicurezza in termini militari, pensa immediatamente a Dipartimento di Sicurezza, appunto a termini militari, ai sistemi di arma per la difesa del paese. Se invece noi andiamo a guardare quali sono le minacce che caratterizzano il XXI secolo, vediamo che sono di tutto che sono sicuramente molto diverse dalle minacce militari del XX secolo. E per me queste minacce sono i cambiamenti climatici, l'incremento demografico, la scarsità delle risorse idriche, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, l'instabilità politica. Queste sono le vere sfide, le vere minacce del XXI secolo. E invece noi purtroppo continuiamo a pensare in base a una definizione che non ci appartiene più. Quindi si tratta di ridefinire il concetto di sicurezza non solo a livello intellettuale ma anche proprio a livello fisico. Basti pensare che negli Stati Uniti viene stanziato un budget per la spesa militare di 800 miliardi di dollari all'anno, per cui ovviamente se queste risorse venissero ridistribuite in maniera diversa, concentrandole magari sugli sforzi per eradicare la povertà, per ripensare tutto il sistema energetico, per la conversione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili, decisamente forse sarebbero meglio spesi. Per cui si tratta veramente di ridefinire proprio il sistema sia in termini intellettuali sia in termini proprio pratici. Redefine security both intellectually and in fiscal terms. Ed ora spazio ad Articolo 9, la nostra rubrica dedicata alla tutela del patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati. In questo periodo in Italia si parla molto del ruolo dei privati a sostegno della cultura. Si fanno convegni, si fanno tavole rotonde, insomma ci si misura su questa presenza necessaria oramai per mantenere il nostro patrimonio. Però mentre si parla e si discute c'è qualcuno che già ha cominciato a fare qualcosa, e in particolare molto attiva è in questi anni la Fondazione Bracco. Abbiamo in collegamento con noi la presidente della Fondazione Bracco, Diana Bracco. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ecco, buongiorno a lei. Allora, la prima domanda che le faccio è di dirci che cos'è la Fondazione Bracco, qual è la missione della Fondazione Bracco. La Fondazione Bracco ha come sua mission quella di mantenere i valori che sono alle radici della impresa Bracco, quindi i valori anche che si intersecano con quelli della famiglia e i valori nel senso dei valori che ci sono cari. Noi siamo sempre stati attenti alla cultura e alla tradizione della bellezza italiana, per cui questo qui diventa uno dei nostri filoni. Ma non è l'unico, perché la Fondazione ha anche un filone sulla ricerca scientifica, certo, ed è uno importante sul sociale. In tutti i tre i filoni noi cerchiamo di valorizzare poi la presenza femminile, cioè abbiamo una specie di fil rouge che è l'apporto femminile a tutte le cose che si fanno, perché secondo me è giusto farlo emergere, e c'è forse assai di più di quello che non appaia a primo acchito. Quindi un'attenzione particolare, una larghezza di missioni naturalmente, non solo quella dell'arte, però a quella dell'arte avete dedicato un'attenzione particolare, e in particolare mi ha colpito molto che il vostro esordio qualche anno fa è avvenuto sostenendo alcune bellissime mostre di cultura e di arte italiana in America. Ecco, perché avete deciso di cominciare, diciamo così, dalla politica estera, diciamo così? Perché gli Stati Uniti dal 94, anno in cui abbiamo acquistato la divisione diagnostici dalla Squibb, da allora siamo cresciuti negli Stati Uniti. Dico con orgoglio che adesso siamo più di 800 negli Stati Uniti fissi, e a mio avviso bisognava e bisogna farsi conoscere, non solo come il fornitore di beni che agli Stati Uniti servono, ma come aspiranti cittadini americani, cioè certo, un'azienda che è un buon cittadino negli Stati Uniti, come la Bracco è un buon cittadino in Italia o in Germania, dove abbiamo le nostre presenze, cioè grande attenzione al territorio, grande attenzione alle persone per quanto si può, e quando dico attenzione al territorio dico anche di dare al territorio il godimento di beni culturali. Non solo, ma si è instaurata, abbiamo costruito questa partnership molto solida con la National Gallery of Art di Washington, certo, che ci ha consentito effettivamente di salire nel discorso mostra. Abbiamo fatto questo canaletto, una cosa eccezionale. Certo. Però la Fondazione non si è dimenticata dell'Italia, anzi, voi avete fatto un gesto straordinario in uno dei luoghi veramente rappresentativi della nostra comunità nazionale, cioè il Quirinale. Ecco, che cosa ha fatto la Fondazione Bracco per il Quirinale? Ma siamo molto fieri di questo, perché devo dire che in partnership proprio con la Presidenza della Repubblica, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, abbiamo sostenuto come primo partner privato, certo, nella storia della Presidenza della Repubblica, il restauro di questa galleria fantastica di Alessandro VII al Palazzo del Quirinale. Era stata la galleria maltrattata da Napoleone Bonaparte, che ne voleva fare gli appartamenti della regina, e avevano chiuso, si immagini, un lato di finestre che solo aprendole, ecco, come mi ha fatto notare Godara, ha detto capisce che aprendole è tutta un'altra cosa. E infatti qualcosa da vedere anche a Milano, perché la Fondazione Bracco anche a Milano, in occasione di questo fine anno, ha realizzato un evento espositivo molto particolare, se non sbaglio, legato a un pittore che fa parte della vostra storia, della vostra, sì, collezione di famiglia. Sì, la collezione del nonno, che aveva tutta salvato, questo pittore che era morente, e ha salvato quelle opere che aveva ancora nello studio. Il pittore Angelo D'Andrea è un pittore pieno di significati, di questi temi, certo, religiosi ma molto sofisticati, di questi bellissimi colori. Perché è legato a noi? Perché la mia famiglia viene dalla Dalmazia, questo pittore è un pittore di Rauscedo, cioè un friulano, sì, che riporta nei suoi quadri anche, secondo me, questa è un'interpretazione mia che i critici bocceranno, la capacità della dei mosaicisti di Spinberg, poi del resto abbiamo Aquilei, eccetera, tutta questa tradizione. Allora a me piace ricercare di ritrovare sempre le radici. Insomma, questa occasione è, appunto, è solo, non solo quella di ritrovare le vostre radici, ma anche di offrire alla città un pittore che veramente ha sorpreso, perché nessuno lo conosceva bene, è venuto fuori un pittore di un certo rilievo. E quindi ricordo a tutti che la mostra è a Milano, a Palazzo Morando. Ringrazio moltissimo la Presidente Bracco. Grazie Presidente, grazie. Grazie. Allora io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio la Fondazione Bracco per questo impegno per la cultura italiana e una buona giornata a tutti. È tutto per questa puntata, grazie a Laura Faggin in redazione. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto.